Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio, Luca Rinaldi in redazione, Mauro De Angeli in regia. C'è un ascoltatore, forse è una supplica, scrive: caro signor Genta, non è obbligatorio parlare ancora del calcio, scommesse, anzi, non so se sia una supplica, ma la raccogliamo perché partiamo da altro, usciamo da un weekend tutt'altro che banale, poi sul calcio scommesse più tardi torniamo, ma solo per divertirci un po'. Un weekend tutt'altro che banale, dicevo, un weekend in cui abbiamo visto questo. Va in testa coda, ma riesce a riprendere Vettel, ma è passato Jenson Button, pilota inglese della McLaren, che taglia il traguardo e vince. Jenson Button si aggiudica il Gran Premio del Canada e poi arriva in volata con Felipe Massa, che riesce a superare Kobayashi, e sesto Massa. Hai visto mai sesto Massa, quanta enfasi. Abbiamo visto anche questo, l'hanno visto quelli che stanotte erano svegli. For the first time in franchise history, the Dallas Mavericks have won the NBA championship. Bill Russell, NBA Finals Most Valuable Player Award, Commissioner Stern again. It's my pleasure to be here with the greatest champion of them all, Bill Russell, after whom the MVP trophy is named. And the MVP of this series, with an average of 26 points and almost 10 rebounds a game, Dirk Nowitzki. E a Würzburg era festa, esattamente come per le strade di Dallas, che conquista il primo titolo NBA della sua storia, prendendosi la vendetta, se volete, del 2006. E c'è Dwayne Wade e soprattutto LeBron James, che sono i grandi sconfitti di questa notte NBA. Ma ieri c'è stato anche questo. Con il sinistro, che gol Gonzales, 1-0 Novara, un super gol di Gonzales, 1-0 Novara. C'è Rigoni, lo scatto di Motta che incrocia, Rigoni, 2-0, è il suo gol, è la sua partita, è il Novara, vola verso la Serie A. 55 anni dopo, la corsa è finita, la corsa del Novara. C'è chi dice che il viaggio sia qualcuno di importante, che dice che il viaggio è più importante della meta. Non so se sia del tutto vero, per questo lo chiedo a chi si è inventato questo miracolo del Novara, Attilio Tesserra. Buongiorno mister. Buongiorno, bentrovati. Bentrovato a lei. È vero che il viaggio è più importante della meta? Beh, vanno di pari passo, diciamo così. Così non ci poniamo dubbi, il viaggio è stato meraviglioso, un viaggio, 2 anni di lavoro, e inaspettatamente ci siamo poi proiettati dalla Lega Pro alla Serie A. Dico inaspettatamente perché le ambizioni iniziali erano la salvezza, invece questo gruppo ha saputo stupire dopo il bellissimo campionato fatto in Lega Pro, anche in Lega B, e sì, questo è stato molto bello. Quanto ha dormito questa notte, Attilio? Un'oretta forse. Meno di Nowitzki, immagino. No, è un'oretta, perché siamo stati così, la partita finisce tardi, quindi siamo andati a cena a fare la festa come era doveroso, e siamo andati a casa io alle 4, e ho dovuto rispondere un po' di messaggini, la adrenalina certo, era ancora un po' alta, e di conseguenza sono arrivate le 8:15, che ero già in piedi. Senta, corsa di testa, siete partiti subito come una schioppettata a inizio stagione, una flessione abbastanza ovvia, abbastanza pronosticabile, e adesso una promozione che è storia. Ecco, io nel giorno più dolce le voglio chiedere qual è stato il momento più difficile invece. Ma il momento più difficile, potrei dire calcisticamente parlando, dico calcisticamente come si parlano i carciofili, è il periodo di flessione che c'è stata, perché è evidente. Ma la realtà è che la squadra non l'ha vissuta così, perché l'essere arrivati all'obiettivo presto, che era quello della salvezza, non poteva essere un demerito, era eventualmente merito. Andare come stavamo andando, forse l'unica squadra era il Barcellona, perché se avessimo continuato su quei ritmi avremmo fatto 100 punti anche noi, e quindi era normalissimo che ci fosse una flessione. Noi l'abbiamo vissuta con grandissima serenità. È chiaro che dopo esserci trovati a Natale, nel periodo di Natale, di dicembre, primi in classifica, e guardavamo quanto era la settima in classifica, abbiamo visto che era a 12, 13, 14, 15 punti. Abbiamo cominciato a crederci che l'obiettivo playoff fosse un obiettivo possibile. e da lì abbiamo cominciato ad alzare l'asticella dalla salvezza ai playoff. Questo è stato il nostro passaggio, che ha voluto essere tranquillo, sereno e fatto con equilibrio. Sì, l'anno scorso tutti parlavano di voi perché avevate il Barcellona della Serie C, no? Una squadra da record. Quest'anno si è partiti parlando del campo, del terreno sintetico, quasi un elemento di curiosità. Poi guardando quel terreno sintetico hanno visto che sopra ci giocava una squadra che ha fatto il miglior calcio della Serie B. Credo che questa, al di là di una promozione storica, sia stata la soddisfazione più grande per chi l'ha allenata. Sì, per me sì, perché chiaramente all'inizio, quando noi vincevamo, gli altri si parlava che non erano abituati al sintetico, quindi non l'abbiamo mai sfruttato, nel senso di dire ci siamo allenati 15 giorni di fila per abituarci. No, noi abbiamo fatto... andiamo a fare solo gli ultimi due giorni la rifinitura e dopo 5 minuti il campo è uguale per tutti. E noi siamo stati capaci, penso, questi ragazzi, di fare delle prestazioni proprio nel periodo di primi 3-4 mesi, proprio sull'onda dell'entusiasmo, delle motivazioni che questo gruppo c'ha. Quasi nessuno di loro aveva fatto la Serie B e volevano dimostrare a loro stessi di essere all'altezza di quello che c'erano conquistato l'anno precedente. Io penso che il segreto vero sia stato questo. E poi, vedendo i risultati, vedendo che giocando come sappiamo, come avevamo fatto lo scorso anno, venivano prestazioni importanti, venivano risultati importanti, si prende convinzione, e questo ha determinato, secondo me, quei risultati e anche quel gioco che siamo riusciti a produrre, soprattutto nella primissima parte di stagione. Sì, io intanto sto raccogliendo un sacco di messaggi carini per lei e per voi, anche chi è genoano ed è felice di incontrare il grande Novara, eccetera, eccetera, eccetera, un sacco di meritatissimi complimenti. Io le chiedo ancora questo: sono stati playoff giocati in un clima abbastanza surreale per tutto quello che stava succedendo intorno. L'avete sentito giocando questo playoff oppure no? Le dico la verità, no, e secondo me la nota più bella dei playoff è stato lo spettacolo straordinario e per me inaspettato, che pure ho fatto queste categorie, che ha fornito il pubblico. Sì. Perché tutti gli stadi, io sono andato a Reggio Calabria, c'erano 22.000 persone, a Padova c'erano 22.000 persone, siamo stati in casa noi con la Regina e con il Padova ieri, e lo stadio era pieno, 10.000 e 11.000 ieri. Quindi massimo contenimento di tutto questo, vedere gli stadi pieni e anche belle partite, mi permetto di dire, è stato un bellissimo spot secondo me per il calcio di Lega B-Wing, Lega Serie B, chiamiamola come vogliamo. Quindi secondo me ho visto un entusiasmo veramente inaspettato in questi stadi, inaspettato nel senso nell'ampiezza di tutto questo, perché penso che veramente sia stato dato uno spot proprio migliore su quello che mi chiedeva lei, non potesse esserci. Io la ringrazio e faccio i complimenti. La ringrazio, grazie. Io molto gentile, grazie. Grazie e davvero. Ringrazio quei radioascoltatori che ci hanno fatto dei messaggini, grazie. Grazie a lei, Attilio Tesser, mister dell'anno certamente in Serie B, ma forse in valore assoluto, non so come la pensate voi. C'è chi mi scrive: filosofeggiando, il viaggio più importante della meta per chi perde? Può essere, però, insomma, se il viaggio si vive bene, è già una vittoria di suo. C'è chi invece annoda un filo rosso tra due luoghi molto lontani e molto diversi come Novara e Dallas, facendo i complimenti ad entrambe. Sì, perché nella notte c'è un altro filo rosso, che è quello che lega Würzburg, un paese della Baviera, sempre a Dallas, e su questo filo rosso danza Dirk Nowitzki. Nella notte le lacrime di LeBron James, che rischia di diventare il più forte e forse il più pagato gatto nero della storia, non so come la vedete voi. 800 24 0024 è il numero verde, 105-95 per i Dallas Mavericks a Miami, 4-2 serie chiusa, Dallas campione del mondo di basket, Dallas campione NBA per la prima volta nella sua storia, e vendetta consumata dopo lo stesso risultato, cioè quel 4-2 con cui nel 2006 i Miami Heat, che erano quelli di Shaquille O'Neal, batterono i Dallas Mavericks di Dirk Nowitzki. Sentiamo subito cosa ha detto Flavio Tranquillo, che ha raccontato queste finali per Sky. Finisce come nel 2006. 6, ma ruoli esattamente invertiti. È Miami che sul 2-1 e con la serie, se non in controllo, quasi in controllo, la perde. È Dallas che esce dalle proprie difficoltà, dimentica in un solo playoff tutto il proprio passato e si consacra campione, spinta dal vento messo nelle vele da tutto il pubblico, tranne quello di Miami. Una vittoria targata Nowitzki, targata Cuban, targata Kidd, ma targata soprattutto squadra, perché per una volta non è un luogo comune dire che i Mavericks hanno giocato di squadra, attacco e difesa, andando oltre i propri limiti, superando i problemi, superando gli infortuni, superando le defezioni, quelle autentiche e quelle virtuali, come per esempio quella di Stojakovic, incapace di stare in campo a questo livello dopo essere stato decisivo nella serie contro i Lakers. Davvero una finale molto particolare, molto equilibrata, molto bella e in cui, smaltita la gioia dei Dallas Mavericks, ci sarà soprattutto da raccogliere i cocci di quello che hanno fatto i Miami Heat, di cui comunque non va dimenticata la stagione e soprattutto i playoff nelle serie contro Boston e Chicago soprattutto. Questo ha detto Flavio Tranquillo. So che non è venerdì ma è lunedì, lo so perfettamente perché non mi sono ancora rimbambito. In un giorno come questo però la cronaca lo impone, abbiamo disturbato il mio guru Coach Dan Peterson. Ciao Coach. Ciao amici sportivi, ciao a sì. Tutti. Con quella descrizione di Flavio Tranquillo non fa una grinza, è perfetta e quindi devo ammettere anche la mia parte in questo qui, che avevo io sottovalutato Dallas, Dirk Nowitzki, Rick Carlisle, proprietario Mark Cuban, cioè sottovalutato un pochettino, pensavo che avessero fatto una buona squadra, una buona società, buoni giocatori, un solido allenatore, però non li vedevo francamente all'inizio di questi playoff squadra campione NBA, non ero solamente io a pensare così, però veramente Carlisle, che mi ha sorpreso più di tutti, sì. Si è veramente fatto da grande allenatore, la squadra organizzata benissimo, giocato, e lui generalmente nel passato non aveva un gioco spumeggiante, invece questa volta l'ha vista la squadra veramente giocare piacevolmente agli occhi, e quindi complimenti a lui. Mitico Dirk Nowitzki e poi Jason Terry e tutta l'altra squadra e Tyson Chandler, grande rimbalzista, stoppatore, atleta, tutti, Jason Kidd 37, va per 38 anni, grande contributo, cioè la perfect storm, la tempesta perfetta, tempesta perfetta. Pezzi insieme. Coach, non so se fa più notizia questo titolo, primo titolo di Dallas o il grande sconfitto, cioè LeBron James, forse è questa la notizia. LeBron James che va a Miami per vincere finalmente questo titolo e poi scopri nella finale che comunque il leader di questa squadra è quello che il titolo l'ha già vinto da protagonista nel 2006, cioè Dwayne Wade, e che nel momento del bisogno LeBron James un po' a sorpresa si scioglie. Well, è chiaro che LeBron James verrà criticato perché nei quarti, in queste partite, le ultime periodi di gioco, non è stata veramente a livello, diciamo, di un Michael Jordan o altri giocatori che potremmo anche citare. Però lui è il più grande talento nel basket oggi, un 2.05 più o meno, che pesa 120 kg, che corre come Usain Bolt, che salta sì. Non so che cosa, cioè ha un perfezionato sul tiro da fuori, passa la palla benissimo, difende pure, prende rimbalzi, caccia anche stoppate, spettacolare, c'è un giocatore eccezionale che alla fine della fiera, come ha detto Flavio Tranquillo, ha avuto la stagione veramente fatta molto bene, battuto Chicago e compagnia nei playoffs, Boston, e quindi bisogna anche ricordare questo qui, ha portato Miami con una squadra corta, secondo me, c'erano tre grandi giocatori e gli altri cioè, giocatori che non sono diciamo del livello di titolo NBA, e coach Eric Spoelstra che verrà criticato pure lui, però io che ne so qualcosa di perde finale, ne ho perso 5, ok? Quindi bisogna, come ha detto Tanjevic, prima bisogna arrivare in finale per poter perderla, quindi io preferisco parlare di Dallas che ha veramente fatto il capolavoro. Certo. Stiamo parlando sempre di viaggio e di meta, in questo caso il viaggio è stato importante almeno quanto la meta, perché è un viaggio iniziato da lontano e fa piacere comunque, Coach, alla fine vedere vecchi campioni come Nowitzki, come Jason Kidd, come Terry, che avevano sofferto quella sconfitta, che hanno avuto una grande carriera ma da perdenti tra virgolette, perché lì non erano mai arrivati, fa piacere vedere che alla fine, quasi all'ultimo atto, ci arrivano anche loro, no? Guarda, io sono, prima di attaccare il titolo, l'etichetta perdente a qualcuno, è uno che magari... Ma perdente, non ma nel senso che non avevano mai vinto, non che siano dei giocatori perdenti. Esatto, cioè, quelli no, che non hanno vinto, certo, però bisogna bussare la porta, come dico io, e Dallas ha bussato la porta da 0-6 altre volte, e questa volta la porta si è aperta e loro sono andati, come si dice, in paradiso. Mi manca la parola per veramente congratularmi con loro, perché Mark Cuban, che ha lavorato benissimo, ha creato una grande società, tutto prima classe, tutto, ogni viaggio, lo spogliatoio, lo stadio, tutto primissima classe, grande soggetto lui. Rick Carlisle è immerso, aveva già vinto titoli con di divisione con altre squadre, allenatore dell'anno pure, però io, sbagliando io, avevo sottovalutato lui un pochettino, e invece lui si è dimostrato di essere veramente un super allenatore, complimenti a lui. Jason Kidd, c'è proprio, cosa si può dire, che uno che lotta tutta la vita l'NBA e la fine della carriera porta a casa un titolo, complimenti a lui. Costi, ringrazio, sentiamo venerdì, al solito. Ciao bambini e amici sportivi. Tutti presenti. Grande coach. Dunque, io voglio sentire primo ascoltatore di oggi, poi altri. 800 24 00 24, numero verde, mentre arriva una da Novara, una bella cartolina che invia con un SMS un tifoso a fine partita. Novara sotto la curva del Padova ad applaudire i tifosi. Knocking at Heaven's Door mi viene in mente, per il Novara come per Dallas, visto che coach prima citava le porte del paradiso. Alessio, provincia di Treviso, buongiorno. Buongiorno, signor Genta. Una considerazione, anzi due, anche se un pochettino mi avete anticipato con Coach Dan Peterson. La prima è quanto contano Jason Kidd, giocatori come Jason Kidd e come Terry, assieme a un fenomeno assoluto come Nowitzki nella vittoria di Dallas. E la seconda, riferita a Miami, quanto invece non contano il resto oltre ai Big Three di Miami. Sì, non sono domande semplicissime, o meglio la seconda non è così semplice. Nella prima, beh, facile dire che con un playmaker come Jason Kidd anche lo stesso Nowitzki diventa chiaramente in questi giorni il giocatore più forte del mondo, comunque diventa uno dei giocatori più forti del mondo in pianta stabile. Io vorrei vedere, sarei molto curioso di vedere un fenomeno assoluto come Kevin Durant giocare con un playmaker come Jason Kidd. Forse qui sta il senso di tutto. Dall'altra parte c'è Miami, che è uno dei più grandi fallimenti sportivi dell'anno, comprendendo tutti gli sport, perché è chiaro che è una squadra nata per vincere, con un pregresso che conosciamo bene, con LeBron James che va lì per vincere dichiaratamente, con tutto il can-can che è stato fatto, con Wade che conosceva già la strada per arrivare a un titolo, con Bosch, le tre superstar, e questa squadra non può perdere il titolo. È una stagione anche difficile, alla fine si ritrovano nei playoff, sembravano dei predestinati, invece il titolo è andato a Dallas, e io credo che questa sia una botta colossale anche per la carriera di LeBron James, perché tutti a domandarsi, ma se non c'è riuscito stavolta, andando lui in casa di Dwayne Wade, quindi con anche facendo una figura non bellissima, come tante volte abbiamo detto, quando mai ci riuscirà questo grande, fantastico gatto nero? Mai andare via da una squadra dichiarando di farlo per cercare di vincere un titolo che ancora non si ha. Questo porta malissimo LeBron, mi ricordo, un grandissimo centravanti svedese, scrive Antonio da Ferrara. Ma ora, dedicato agli ascoltatori, alcuni dei quali inviano anche SMS, ascoltatori poveri di spirito che si annoiano magari a sentir parlare di sport vero e preferiscono argomenti più pelosi, più scabrosi, se vogliamo anche più banali. Dedicato a loro e a tutti gli altri che interverranno, 800 24 00 24, numero verde. Mentre il pallone con il trucco si sgonfia pian piano e le maschere di questo circo tornano a casa, dal dentista al tabaccaio, o meglio tornano da dove sono venuti, dal loro anonimato, l'impressione che avesse visto giusto fin dall'inizio e scritto di conseguenza già giovedì scorso Goffredo Buccini sul Corriere della Sera. I quattrini, vabbè, tanti. Euro a centinaia di migliaia con le scommesse pilotate, d'accordo. Ma vuoi mettere lo sfizio? Tirzan, per dire l'indimenticabile camionista juventino di eccezionale veramente, arpionava così l'avvocato allo stadio. Niello? Cian! Ciao, come va? Quanto tempo? Cian Agnello! Senti, la famiglia come sta? Tutti bene, grazie. Bene? Tuo fratello? Fratello Umbertino, bene? Senti, toglimi una curiosità, scusa. Ne parlavamo proprio l'altro giorno con degli amici nostri del bar e dicevamo, ma per il fatto dell'acquisto di Maradona, se hai delle difficoltà per i soldi, dammi un cuppetto di telefono, ci penso io. Uffredo Buccini, buongiorno. Buongiorno a voi. Tutti come lui, come Tirzan. No, l'impressione che si ricava effettivamente, come tu hai detto giustamente, che si ricavava dalla lettura delle intercettazioni che sono state pubblicate sui giornali in ampia copia, come sempre, era di una, più che altro di una congrega da bar molto abile nel, come dire, tiranneggiare il povero Paoloni, che mi sembra veramente l'anello debole, sì, di questa sta catena. Debole e malato, Goffredo. Anello debole, sicuramente malato, e molto velletria nel raggiungere le stelle del calcio, nel senso che ogni volta che provano a truccare o a far truccare o a prevedere i risultati di una partita importante, insomma con una grande squadra, escono fuori delle robe grottesche. Sì. E questo mi colpiva un po', nel senso che secondo me la mia impressione è che questi personaggi, appunto il dentista, il tabaccaio, questa piccola provincia italiana avatiana, in qualche davvero ci vorrebbe Avati, sì, per raccontarla, coltivasse un solo sogno vero, poi certo se vengono i soldi anche meglio, ma quello di poter immaginare di dare del tu al mito, cioè al certo, calciatore importante, di dare dei consigli all'allenatore, che non vorrebbe dire al presidente della propria squadra chi deve fare. Ecco, loro, questo in fondo è una sublimazione di questa roba, insomma. Sì, certamente, ed è una fisima, come tu giustamente scrivi, perché il termine è quello, che è palpabile nel nostro paese, dall'ultra che vuole dare del tu al capitano, a quelli, sì, che vogliono comunque sentirsi parte di un gioco in cui dovrebbero essere dei semplici spettatori, o se vogliamo degli scommettitori, magari non malati come questi, no? Sì, ti voglio anche dire che secondo me in questa storia c'è invece un nodo abbastanza emblematico di un problema italiano. Allora, io ti ripeto, poi si vedrà come finisce l'inchiesta, è ancora presto, ma sono abbastanza perplesso dalla sovraesposizione sui giornali e sulle televisioni del procuratore di Cremona, sì, che peraltro è il solo PM di Cremona, perché ho letto in qualche pezzo degli ottimi colleghi che non ha sostituti, quindi è una sorta di organo monocratico, insomma, che sta lì e che parla tanto. Cioè io non riesco a capire perché un procuratore della Repubblica, nel pieno diritto di fare tutte le inchieste che gli passa per la testa, senta il bisogno di commentarle quasi quotidianamente sui giornali, aggiungendo le proprie sensazioni. Secondo me un giorno arriverà, un giorno in cui ritorneremo al punto in cui non sapremo come si chiama il PM che fa l'inchiesta, ma non per legge, non perché una legge glielo imponga, ma perché glielo suggerirà il senso dell'opportunità che si è perduto completamente nell'Italia di oggi. Guarda, hai ragione da vendere. Ora, ad essere maliziosi si può pensare che sia così una botta di protagonismo, in altri casi o ad essere meno maliziosi si può pensare che comunque sono serissimi giudici che però non sono abituati a maneggiare un affare delicato come il calcio, che ha risvolti anche sul piano sportivo. Sì, ma quando ti parlo proprio dello spaccato di è perché non è che devono maneggiare il calcio sui giornali, devono maneggiare in termini di reati penali nelle loro inchieste, e questo è doveroso, perché l'azione penale, grazie a Dio, sono favorevole, è obbligatoria in Italia, non è facoltativa, non è discrezionale, dove non dovrebbero maneggiarlo, perché diciamo gli viene peggio, è sui giornali. Quindi io non riesco a immaginare che degli uomini di 60 anni con una brillante e importante professione alle spalle sentano il bisogno di esporsi così tanto sui giornali. Secondo me è una cosa inopportuna. Un giorno più o meno questo paese si renderà conto che non è opportuno che le procure pubbliche parlino così tanto sui giornali e non per atti. Un tempo era così. Guarda, giovedì, cioè quando il Corriere della Sera pubblicava questo tuo prezzo, quella combricola da Basport che ordinavi gol, abbiamo fatto una puntata proprio su queste inopportune sensazioni, caro Goffredo. Senti, restano, mi pare, a questo punto, sempre davanti a questo pallone che va lentamente sgonfiandosi, anche nella, forse nell'interesse dell'opinione pubblica, restano pochi fatti acclarati, mi pare, per quel poco che si sa ancora. E molto fango in giro che sarà difficile lavare, perché da noi le sensazioni dei procuratori e anche i titoli di giornale spesso macchiano quanto sentenze di condanna. Sì, sì, devo dire, noi abbiamo anche noi le nostre ottime colpe, ottime responsabilità, perché il titolo spunta fuori il nome di, e poi questo nome spunta fuori in che contesto, chi lo fa, come lo fa, però intanto è spuntato fuori in un titolo e ti rimane depositato in testa. Secondo me ha molto torto Buffon, perché non sa quello che dice quando lo paragona a Piazzale. Quella è una sciocchezza. Anzi, in è quel una caso sciocchezza. Bisognerebbe evitare di dire stupidaggini, come esatto. Le procure potrebbero parlare un po' meno, i calciatori potrebbero evitare di cimentarsi sulla storia padre di cui probabilmente non sanno molto, ma c'è del vero quando è assurdo, quando si dice che è assurdo, che certi nomi, per non far nomi, quello di Totti e quello di Vieri, escano fuori così disinvoltamente a fronte di nulla. Esatto, di nulla, ragazzi. Esatto. Sarà interessante, Goffredo, per chiudere, adesso capire e vedere cosa faranno quei fenomeni della giustizia sportiva. Guarda, io sono interista, te lo confesso, quindi ho verso la giustizia sportiva qualche diffidenza, insomma. Eh sì, perché poi ognuno guarda queste cose con a seconda del colore delle lenti, del colore delle lenti, no? Certo, anche qualche juventino potrebbe essere diffidente verso la giustizia sportiva, me ne rendo conto. Ognuno, sai, in fondo siamo davvero, è questo, se riusciamo a sorriderci su, è il nostro bello, siamo un paese fazioso e partigiano, però l'importante sarebbe di non prenderci troppo sul serio. Goffredo, io ti ringrazio. Ti a ringrazio voi. Molto, grazie, grazie a Goffredo Buccini, inviato del Corriere della Sera. Adesso mi tuffo tra gli ascoltatori da Pordenone alla provincia di Chieti. Roberto, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, premetto, io la penso come voi, mi sa tanto di tanti che mi lantano con poche basi sostanzialmente, però faccio una considerazione. All'inizio lei parlava ha chiesto all'allenatore del Novara come avessero vissuto i playoff, in che stato, in che condizioni erano stati condizionati. È una domanda scontata, quotata bassissima. Allora, io le do una risposta e le ho premesso come la penso. La penso come lei e come l'inviato del Corriere della Sera. Però verifico questo. La risposta di pubblico nei playoff, con le quattro squadre che non sono state minimamente prese in considerazione da questo tipo di problema, qual è stata? Splendida, tutti gli stati pieni. Sì, beh, peraltro e per la cronaca, il Padova è stato un po' toccato, no, di striscio, lei saprà, ed era ovviamente arrivato in finale in questi playoff, però certamente, l'ha detto anche prima Tesser, insomma, è stata una risposta, se vogliamo, anche in attesa, quasi una risposta del popolo della Serie B, del popolo del calcio, a quanto stava capitando intorno. Franco, provincia di Chieti, buongiorno. Pronto? Mi sente? Sì, la sento. Senta, per quanto riguarda il calcio scommesse, visto che si parla un po' di questo sempre, anche se oggi il basket sarebbe stato l'argomento più bello, io vorrei un attimino un po' ribaltare il problema. Io parlo dei campionati di prima e seconda divisione. Sì. Io ho fatto il direttore sanitario in diverse squadre e io penso che la colpa non sia di quel povero Cristo, mi passi il termine, del calciatore, che poi alla fine finisce per vendersi una partita perché non ha uno stipendio da 5 mesi, 6 mesi. Io le faccio soltanto un esempio. Beh, però a questa stregua non sarà solo lui, no? Lei ha ragione in quanto dice che il ventre molle di questa vicenda è evidenziato nella Lega Pro, no? Nei vecchi campionati DC1 e DC2. Non sarà stato l'unico giocatore che non pigliava i soldi da un po' di tempo. Se si mettono tutti a vendere le partite, cioè non può essere una giustificazione questa, non so se mi spiego. Non dico questo, però io penso la colpa è sempre al vertice. Io le faccio un esempio banale. Quale vertice? Ma Lega, dai presidenti federali, dal presidente del CONI, dal presidente Lega Pro, io le faccio un esempio banale. campionato di seconda divisione, girone C2, sapevamo tutti già ad agosto che il Catanzaro sarebbe retrocesso, perché sapevamo tutti che non aveva i soldi per pagare stipendi e quant'altro. A un certo punto, 15 giorni prima della fine del campionato, esce un illecito federale da parte del Pomezia che pare abbia presentato una fideiussione irregolare, falsa. Il Catanzaro viene salvato, il Pomezia, che ha fatto 50 punti, viene in pratica retrocesso. Ma io dico, a livello di federazione ci vogliono 8 mesi per rendersi conto se una fideiussione falsa. Ma sì, ma queste sono piccole storie di malaffare in quel sottobosco che andrebbe secondo me bruciato in modo da cogliere l'unica vera occasione che è presentata da questa storiaccia, cioè quella di risistemare la follia di due campionati professionistici che sono la Lega Pro, la vecchia C1 e C2, che non hanno alcuna ragione di esistere. Certamente questa grande occasione finirà in cavalleria e saremo qui a dibattere sull'operato di quei fenomeni della giustizia sportiva nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. La vera grande occasione sarebbe quella di riformare, ma da oggi, da subito, quei campionati, cominciando ad eliminare tutte quelle squadre che partono senza soldi, che presentano fideiussioni false, che non hanno garanzia. Eliminiamo quelle e riformiamo subito questi campionati. La grande occasione era questa, e la grande occasione, come al solito, non verrà sfruttata. Facile pronostico, scommesse con quote bassissime su questo argomento, secondo me. Tra le molte cose divertenti di questo weekend vi faccio sentire, poi andiamo anche così altri ascoltatori saranno contenti. Incontentabili siete. E se si parla di basket non va bene, che bisogna parlare di calcio, si parla di calcio, si parla troppo di calcio. Va bene, ma io vi voglio bene lo stesso. Vi faccio sentire proprio perché vi voglio bene. Spalletti, che ha beccato un gol oltre il 94esimo minuto dei 4 minuti di recupero concessi dall'arbitro, ma queste insomma è la premessa di cronaca. Sentiamo invece come ha parlato Spalletti. Ma che emozione, ma che emozione, ma che cazzo dici, ma che emozione, che quale emozione? 4 minuti di recupero, 30 secondi per la sostituzione, 4:30. Mi ma fa le cose regolari, fanno le cose regolari come è la regola e si va tutto a posto. La regola è regola, perché l'ha fatta durare 20 secondi di più? Perché gli fa piacere così. Per cui io l'ho già detto che a lui non gli sto simpatico, e anche oggi l'ha fatto vedere. Non so se preferite Spalletti o Tirzan, che vi ho fatto sentire prima. Lorenzo, provincia di Trento, buongiorno. Buongiorno Genta. Salve. Che piacere sentire finalmente qualche puntino sulle i, qualche precisazione, qualche andiamoci piano, qualche critica nella giustizia sportiva. Però 6 anni fa andava tutto bene, quando su Moggi c'era pubblicato di tutto, anche le intercettazioni telefoniche di suo figlio Alessandro, che invitava Ilaria D'Amico a Parigi. Sì. Quando la Juventus è stata massacrata in 2 settimane nello scantinato dello Stadio Olimpico di Roma, lì andava tutto bene. In questo sarcasmo lei mi deve dire cosa c'entra questa storia con quella. C'entra perché... C'entra nulla. No, Lorenzo, non c'entra... Non c'entra nulla. Avete cambiato atteggiamento. Abbiamo cambiato atteggiamento su due cose profondamente diverse. Perché io prima parlavo di lenti colorate, no? Questo è il ritornello che più mi fa imbestialire e che va avanti dalla scorsa settimana, che sta nel legare questa vicenda a quell'altra, sapendo bene che sono due vicende che non c'entrano nulla l'una con l'altra. Io sono contrario ai magistrati che parlano troppo e sono contrario alla divulgazione di notizie, alla pubblicazione di intercettazioni che sono già sentenza. In quel caso, l'altro giorno mi chiama un avvocato e dice fa più o meno lo stesso discorso. Io torno a ripetere, lo faccio ormai da oltre 4 anni, ma non mi stanco, qual è il mio punto di vista, che è il mio e non ho la pretesa di convincere nessuno, il mio punto di vista su quella storia. Se il giudice parla con l'avvocato che è parte dei fatti della causa, il processo, dice il codice di procedura penale, è nullo. Se Moggi parla, Moggi come gli altri che poi sono stati puniti in vario modo e con sanzioni anche draconiane se vogliamo, possiamo anche dibattere sul modo in cui la giustizia sportiva pesò e peserà probabilmente le sue sanzioni. Ebbene, se Moggi parla con gli arbitri e col designatore, quei campionati e quei processi, quei campionati sono esattamente come i processi, cioè nulli. Questo è il mio punto di vista. Poi, se vogliamo fare della facile ironia o del sarcasmo sul modo in cui vengono trattate due vicende che non c'entrano nulla una con l'altra, facciamolo pure, io sono qui per rispondervi. Mario Poltronieri, buongiorno. Buongiorno a te e buongiorno a tutti. Chiudiamo allora con la corsa più pazza del mondo. Beh, io direi addirittura due corse. Una prima corsa fatta praticamente dalla Safety Car, seguita incidentalmente dalla Ventini Formula 1. Poi due ore di pausa e poi una corsa vera, dove negli ultimi 10 giri si è capito veramente qual era la scala dei valori. Perché effettivamente questo circuito è bellissimo, Montreal è una città affascinante, però effettivamente rende le cose abbastanza complicate con questo continuo intervento dalle safety car. Sono state 6 ieri, 6 e per parecchi giri, già 4 giri all'inizio per vedere di capire esattamente quale sarà la tenuta delle gomme delle varie macchine in condizioni di massima velocità. E faccio un inciso sul safety car: se girano giustamente su un certo punto di vista per tenere in temperatura i motori, le gomme eccetera eccetera, ma vanno così veloci, si rischia, come è stato ieri, di ammazzare qualcuno. Perché quel commissario che è andato in pista per prendere uno dei pezzi che si erano rotti nella vettura ha evitato per un attimo di essere investito da una delle macchine, sì, che teoricamente doveva andare ad agio. Quindi ci sono tante cose che non vanno, però alla fine Mario aveva ragione Eccleston quando dice inondiamo le piste, insomma, perché quando mai ti capita di vedere una corsa come questa? È vero, se avete car continuamente in pista e così via, però alla fine è stata la gara più, probabilmente sarà la gara più importante, più intrigante dell'anno. Sì, soprattutto nella parte finale, però, perché il primo è show, chiamiamolo così. Cioè la scala di valori non si è vista, perché con queste continue fermate, certo, più le interruzioni eccetera, sono stati solo gli ultimi giri che ti hanno dato veramente la sensazione che Button aveva una macchina meglio regolata, con l'alettone con maggiore incidenza, le gomme in condizioni migliori, e Vettel che ha fatto un errore modestissimo ma sufficiente per farsi scavalcare. Ecco, quella è stata, diciamo, dal punto di vista della corsa. Tra l'altro non dimentichiamoci questa ricomparsa nei momenti più critici di Schumi. Sì, come no, una bellissima corsa. Come ha scritto Giorgio Teruzzi sul Corriere, sull'acqua fan si rivede Schumacher. Ma è vero, perché oltre a... Non sentiamo più purtroppo Mario Poltronieri, un peccato, ma siamo in chiusura. Tra l'altro riprenderemo tutte le nostre discussioni domani dalle 14 alle 15, mi scuso per la brusca interruzione, saluto in contumacia Mario Poltronieri. Ringrazio intanto Luca Rinaldi per il lavoro in redazione e Mauro De Angeli in regia. Domani dalle 2 alle 3 siamo di nuovo qui.